Radio 24 Reportage. Charlie a Milano e l'Islam tra di noi. Di Vilus. Ils ont tué 12 personnes. 12 persone uccise a Parigi. Una caccia all'uomo durata 3 giorni. La paura del terrorismo islamico per le strade della capitale francese. Ne ho sentite tante, forse anche troppe. Ne abbiamo parlato a scuola, in famiglia, tra amici. 4 mesi più tardi ancora mi chiedo: ma chi sono questi islamici che vivono nelle nostre città? Devo averne paura? Ho deciso di chiarirmi le idee, o almeno ci provo. L'unico modo che mi viene in mente è quello di chiedere a tutti quelli che mi stanno intorno. Cominciamo con Vincenzo, esponente milanese della Lega Nord. Portano con sé un bagaglio di tradizione, di cultura e di storia e di visione delle cose che è completamente differente e per certi versi, nei casi estremi, inconciliabili con il nostro tipo di visione, senza stare a guardare quale sia giusta e quale sia sbagliata. Charlie Hebdo e le Femmes sono proprio l'emblema della dissacrazione della società occidentale. Charlie Hebdo va a fare degli attacchi così forti, così irrispettosi pure nei confronti di una religione, quella musulmana, senza porsi il problema di che cosa significhi per il musulmano essere attaccato nella figura di quello che è il suo profeta, di quello che è il suo Dio. Il multiculturalista va in cortocircuito perché si rende conto che il multiculturalismo, però, poi quando due culture sono così diverse, dice: ok, ma io adesso che cosa faccio? Perché tutti dicono: sì, no, noi dobbiamo assolutamente accogliere il diverso, noi dobbiamo assolutamente accogliere le culture diverse dalle nostre, però poi si incazzano se la donna araba porta il velo. Aumenta la richiesta anche, diciamo, di moschee, di luoghi di culto, mentre dall'altra parte, per esempio, le chiese sono sempre più vuote. Francesco ha 25 anni. Io mi sento di condannare anche Charlie Hebdo sicuramente. Chi tocca la religione, certi valori, deve essere anche consapevole dei rischi. Non c'è un'integrazione in Italia, non esiste, ma né con i musulmani né con gli zingari, cioè con nessuna. Cioè, a me fa ridere quello che mi dici, io sono amico di un negro, ma perché non è vero? Perché è un'immigrazione forzata, è un'immigrazione voluta a tutti i costi. Sull'integrazione ho sentito anche opinioni opposte, come quella di Daniele, universitario di 22 anni, e Tarek, liceale 18enne. Io penso che le persone di religione musulmana per bene siano ben accette dalle persone per bene residenti in questa città, che è Milano. Non è facile cercare di andare incontro a una persona che per prima rifiuta un incontro culturale. Il problema non è nelle sacre scritture o nella religione vera e propria, il problema sta nell'interpretazione. La differenza religiosa ci sta, ma poi bisogna vedere come viene applicata alla convivenza civile. Io ho paura della gente folle in generale, non della gente folle legata all'Islam. In situazioni di guerra e povertà, le persone si legano, soprattutto quelle ignoranti, alla religione. E finiscono quindi in estremismi, ed è proprio quello che è successo. Nell'ignoranza e nella povertà si sono legate alla religione e a un modo sbagliato di vedere la religione. E io che sono nato qua, che ho avuto un'educazione occidentale, difendo la satira. Cioè, io personalmente, se devo dire se sono Charlie Hebdo, io sono Charlie Hebdo. La libertà di espressione è fondamentale in Europa, quindi bisogna anche saper accettare questa cosa qua, secondo me. Gli stessi musulmani devono cominciare a imparare realmente cos'è l'Islam. Da una parte perché provo una rabbia incredibile rispetto a questi gruppi estremisti e questi personaggi, perché oltre a rovinare l'Islam in sé, che non conoscono, stanno rovinando il Medio Oriente. A me piacerebbe vedere un Medio Oriente che cresce culturalmente e che si evolve. In realtà questi stanno distruggendo il Medio Oriente. Terribile, cioè, mi fa proprio rabbia. A causa di questo attentato, in una settimana l'intero mondo ha cambiato opinione e questo si sente. Se si vuole parlare di una cosa bisogna studiarla, bisogna conoscerla, quindi è inutile che certi politici strumentalizzano l'Islam per portare avanti una loro politica, voglio dire, razzista, perché io sono convinto che le contraddizioni ci sono nell'Islam come in altre religioni, anche perché sono religioni che sono state definite tantissimi secoli fa, quindi sono convinto che l'Islam si possa adattare al momento storico. È giusto che, se ci sono delle contraddizioni nell'Islam, l'Islam si adatti a questo. avere una visione più completa, sono andato ad incontrare il presidente della Casa della Cultura Islamica di Milano, Beneissa Bunegab. I primi danneggiati sono i musulmani. Chiaramente l'Islam non ha niente a che vedere con questi atti. L'Islam è una religione di Dio. Atto come quello di Charlie Hebdo è un atto vile, quindi è una belva cieca che spara su tutti. Il musulmano non è nato per fare la guerra. Certamente non è facile, non è mai stato facile e speriamo che nel futuro prossimo cambino le cose. Perché è una questione di cultura, penso che sia da ambedue le parti. Una delle cose più importanti non c'è intesa, perché lo Stato fa le intese con la comunità ebraica, con la comunità cristiana, con i buddisti. Con la comunità musulmana lo Stato italiano fino a quest'ora non ha mai firmato l'intesa con la comunità musulmana. Io spero che un giorno Milano diventi Milano e ne prenda atto, ridando dignità a tutti i suoi figli, comunque sia la loro origine e comunque sia il loro credo. Quando ho chiesto un parere sulle moschee, molti mi hanno detto che ce ne sono già troppe, anche se io ho scoperto che a Milano non ce ne sono proprio, almeno di ufficiali. E costruirne una? Assolutamente sfavorevole. Persone con regolare permesso di soggiorno e civili anche nel comportamento in questa società ce ne sono talmente poca che basterebbero quelle che già esistono. Metterne altre vuol dire che potrebbero richiamare ancora più persone che non dovrebbero stare qui. No, per motivi di sicurezza in questo periodo sarebbe meglio evitare la costruzione di moschee a Milano. Simone è un educatore cattolico e teme che senza moschee ufficiali le cose non miglioreranno. Secondo me, a partire dal fatto che bisogna rispettare la legge italiana e quindi chi sceglie di venire in Italia o si trova di fatto a vivere in Italia deve adeguarsi ad alcuni standard minimi che dipendono dalla nostra storia, dalla nostra cultura, eccetera, eccetera. Fatto salvo questo, ciascuno ha il diritto di poter essere messo in condizione di esercitare veramente i propri diritti personali, tra cui rientra il diritto all'esercizio del culto, quindi alla propria religione, anche perché se tu costruisci le moschee, tu hai anche la possibilità di, fra virgolette, controllare quello che accade. Puoi imporre, per esempio, che gli imam parlino in italiano, puoi mettere degli organismi di controllo. Se invece dici ciecamente no, niente moschea, che tanto le moschee e tanto i musulmani si ritrovano lo stesso per pregare, semplicemente lo faranno in luoghi abusivi, ti togli la possibilità di controllarlo, diventa autolesivo alla lunga. Quindi, secondo me, assolutamente sì. Tarek, che è musulmano, non ha dubbi in proposito. Come ogni cristiano voglia andare in chiesa la domenica, anche il musulmano sente bisogno di trovare un proprio luogo di culto. Ora, il problema nasce quando la gente è impaurita dalla moschea in sé, sentendo anche tutte le notizie al telegiornale, cioè capisco che sia anche normale. E quindi il punto è che la moschea in realtà può essere un luogo di insegnamento, di educazione. Quindi se la moschea è controllata e a capo della moschea c'è un imam che ha studiato il Corano, sa com'è il Corano e non lo strumentalizza, può permettere a giovani di scoprire davvero che cos'è l'Islam e evitare di finire in estremismi. Ed è per questo che secondo me la moschea in realtà è un punto di forza per impedire al terrorismo di nascere. Rispondere al buio col buio non ci porta da nessuna parte. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.